GR24 Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Paris Saint-Germain piglia tutto, ufficiale anche l'arrivo di Marco Verratti alla corte di Ancelotti, in cambio di 12 milioni di euro al Pescara. Ora saranno i giorni della superstar Zlatan Ibrahimovic. 4 anni di contratto a 14 milioni e mezzo di euro a stagione, oltre 2 in più di quelli che già guadagnava al Milan. Zlatan Ibrahimovic sotto la Torre Eiffel non ritrova solo Carlo Ancelotti e Leonardo, ma anche uno stipendio record che alla fine è diventato il vero oggetto della trattativa e che ne fa il terzo giocatore al mondo più pagato dopo Eto'o e Drogba. Al Milan arriveranno una ventina di milioni di euro a completare il malloppo già incassato con Thiago Silva. Intanto i parigini continuano lo shopping. Dopo i due rossoneri e Lavezzi, ecco arrivare anche il 19enne Verratti. Per lui contratto quinquennale al Pescara 12 milioni. E il Paris Saint-Germain ha già nel mirino il prossimo obiettivo, il croato del Tottenham Modric, quotazione 50 milioni. Spiccioli per i catarioti che fanno risplendere il calcio business nella Villa Lumière. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lavoro all'estero anche per Fabio Capello, che da ieri ufficialmente è il nuovo CT della nazionale russa. Felice e orgoglioso, sarà un'avventura splendida. La Russia è una grande nazione, ha detto Capello. Quella di Del Piero è una presenza che manca, fa molto strano che non ci sia. Ieri era il giorno di Antonio Conte, allenatore della Juventus, davanti ai microfoni. Dopo il passato, il futuro, obiettivi secondo Conte, che non rifiuta il ruolo di favorito per lo scudetto. Obiettivi? Cerchiamo di confermarci in Italia, che è uno step importante per noi. Confermarci in Italia è importante. Affronteremo per il primo anno con questo gruppo la Champions, cercandola di affrontare nel migliore dei modi, con grande entusiasmo, con grande voglia da parte di tutti, cercando di fare più strada possibile, non dimenticando mai da dove siamo partiti e quello che ci ha portato a vincere lo scudetto. Se saremo bravi, io per primo, a non dimenticare mai da dove arriviamo, e allora io penso che ci potremmo togliere delle soddisfazioni. Affari fatti come quelli del Napoli, che rinforza difesa e centrocampo con Gamberini e Berami, così Mazzarri. Partiamo da Gamberini, che anche lui va un pochino così rivalutato, come abbiamo fatto ad esempio l'anno scorso con Pandev. È chiaro che alla base c'è un valore tecnico, c'è un'esperienza importante. 2 anni fa, se non sbaglio, era ancora in nazionale, quindi è un giocatore che può ricoprire più ruoli nel reparto difensivo. E Berami è più giovane, è un giocatore che ha fatto, nonostante l'annata alla Fiorentina non sia stata così importante, però lui è uno di quelli che non ha mai mollato, ha sempre fatto bene. È un giocatore che può ricoprire anche lui più ruoli del centrocampo. E ora lasciamo il calcio. Giorno delle fughe al Tour de France. Vince per distacco il francese Fédrigo. Invariata la classifica generale a Pau, con Wiggins sempre in giallo. Oggi giorno di riposo, poi 2 tappe di montagna decisive. Il diario di Ivan Basso. È stata una tappa molto molto difficile, perché è stata percorsa ad altissima velocità nei primi 80 chilometri, prima che andasse via quella la fuga che poi è andata all'arrivo. Veramente grandissima battaglia e una vittoria strameritata. Ci sono 2 tappe che decideranno questo Tour de France insieme alla cronometro di sabato. Io credo che quello che noi dovremmo fare è quello di cercare di portare Nibali più in alto possibile. Vedremo un attimino se nella tappa di mercoledì o giovedì io cercherò di andare davanti per poi fare da punto d'appoggio per lui, oppure se stare con lui più a lungo possibile fino proprio alle fasi finali della corsa. Quello lo decideremo durante la corsa in base alle sue sensazioni, in base alle mie sensazioni. Ed è tutto per questa prima pagina sportiva di oggi. Di nuovo buona giornata.